Le 8 e 18 minuti di martedì 27 ottobre, questa è la terza parte di 24 Mattino. Al microfono sempre Simone Spezia. Vi aspetto se volete all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Tra poco parleremo di due argomenti, se volete in parte correlati, Il primo è quello delle proteste di piazza e politiche contro le decisioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il secondo è quello dei ristori economici, ma non quelli che arriveranno da parte del governo. Si parla appunto di ristori per i settori colpiti, palestre, piscine, ristoranti e via dicendo, ma di quello che non è arrivato, ossia i soldi della cassa integrazione. Se avete anche vostre testimonianze su questo, oltre che sui soldi che dovevano arrivare per gli autonomi e via dicendo, beh, c'è l'800 24 0024 e il 349 238 6666 per i vostri WhatsApp audio e per le vostre voci. È il momento, come sempre, del punto di giornata con Paolo Mieli. Caro Paolo, buongiorno. Eccomi, eccoci, buongiorno. Eccoci qua. Hai visto che bella notizia? Sulla Luna c'è acqua su 40.000 chilometri quadrati, quindi un sacco di acqua. C'è già in progetto, torneremo sulla Luna nel 2024, l'ha scoperto, insomma, accreditata questa notizia dalla NASA, e insomma potremmo andare sulla Luna nel caso di un'emergenza straordinaria. Oppure se ci fosse bisogno di un isolamento un po' più stringato, però bisogna stare attenti al viaggio per andare sulla Luna, perché il nostro grande astronauta Paolo Nespoli, il primo italiano che ha partecipato a queste missioni, mi ricordo quella del 2007, 2010, 2017, adesso ha un'età, insomma è fuori, non può tornare, però ha raccontato in un libro, lo racconta il Corriere della Sera, che ha sbagliato pulsante, ne ha spinto di allarme rosso. Per fortuna poi tutto è andato stupendo, insomma, cose da non fare, pigiare il pulsante rosso quando sei sullo shuttle. C'è anche l'errore umano, e quindi insomma, abbiamo cominciato con una notizia ironica, però ovviamente i giornali sono ancora pieni di Covid. A proposito delle manifestazioni, mi ha colpito, io sto seguendo molto la vicenda fra De Luca e De Magistris, che il sindaco di Napoli ha detto che lui vuole marciare con questi insofferenti, insomma, o sofferenti, lo dico fra virgolette, per ascoltare e essere vicino ai cittadini che soffrono. Forse anche questa è una frase che resterà. Poi c'è polemica politica, questo ne hai già parlato. Sì. Non moltissimo. Questo Zingaretti che si lamenta delle divisioni. In realtà c'è la Correnzi, perché Renzi protesta contro soprattutto i divieti a cinema, teatro e compagnia cantando, non è solo, ma in realtà il vero buco nero del governo sono che protestano i 5 Stelle. Spadafora ha detto che 2 settimane fa potevamo anche stare zitti, una frase molto forte che ha fatto incavolare tutti gli altri ministri. Lazzolina anche protesta. Silieri l'hai avuto tu ieri e ti ricordi, insomma, che è molto trattenuto nei confronti delle scelte di governo. Interessante, seguiamolo questa insofferenza dei 5 Stelle, perché oggi ho visto... Prego, finisci e poi ti volevo chiedere una cosa, una tua valutazione, però finisci, vai. Che ha lasciato un'altra senatrice dei 5 Stelle, Tiziana Drago, siccome al Senato la maggioranza è risicata, insomma seguiamo, io non credo ci sarà la crisi di governo in mezzo a questo pandemonio, però... Che ti volevo portare, perché vedo una sorta di trasferimento della crisi da Covid, dell'insofferenza da Covid e delle proteste di piazza sulla politica, era forse prevedibile, soprattutto in questa fase, dopo questa specie di lockdown, e però qua c'è Mattarella che tira il freno su un'eventuale crisi, però abbiamo anche un Giancarlo Giorgetti e la Lega che in queste ore dice accordiamoci, rieleggiamo Mattarella e andiamo al voto subito dopo la rielezione del Presidente della Repubblica. Ieri l'ha detto chiaramente Giorgia Meloni, oggi lo ribadisce Giorgetti. mettono in mezzo questa, insomma, tutto l'iter disegnato da entrambi è molto complicato. Bisognerebbe rieleggere Mattarella immediatamente, poi prendere, non so, 6 mesi e alla fine di questi 6 mesi fare le elezioni. Ma noi fra 6 mesi non sappiamo ancora bene come saremo, insomma, ci auguriamo tutti che, come da annunci, impegni presi da Conte, però mi è sembrato di capire che tu non ci credi molto a questi impegni di Conte, quali? Gli annunci, quali? Entro l'11, adesso i nuovi, tu hai sollevato il caso Palestra, dei tanti? Cioè, quali? Che entro l'11 novembre rimborsa tutti, entro Natale avrà il vaccino, che non so quanti altri ne ha fatto, ma la tecnica, ormai i giornali l'hanno scoperta, è questa: uno fa un annuncio a breve, che uno si domanda, ma perché fa gli annunci così a scadenza breve? Li fa perché prima che si vada a vedere quello che aveva annunciato c'è un nuovo DCPM che fa altri annunci e prende altri impegni, e così si può andare avanti all'infinito. Certo. Si fa un DCPM alla volta, uno all'incirca ogni... Adesso forse sarà il record che si fa con meno di una settimana, e io terrò sempre il ricordo di quello che tu hai sollevato, le palestre. Se uno annuncia entro una settimana vedremo se sono a norma, prima ci dice quello che ha visto. Tutti i giornali sottolineano come da poche cifre, cioè non si capisce. Per esempio, chiude i ristoranti e i teatri. A proposito dei teatri, ho visto che Gabriele Lavia propone, ma teniamoli aperti fino alle 17, noi siamo abituati, facciamo le matinee, le pomeridiane, possiamo provare a fare questo, perché loro dicono, ma noi non li abbiamo chiusi perché lì si diffonde il contagio, ma per scoraggiare i cittadini a viversene fuori casa di sera. È meglio che la sera sia a casa, invece di fare il lockdown gli chiudiamo i posti dove sono, vanno, tentati di andare. Insomma, poi ti segnalo che il Trentino è la regione che fa eccezione, perché ieri il presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti, ha annunciato che lì, da loro, i bar rimangono aperti fino alle 20, i ristoranti fino alle 22. Sgarbi non si è fatto sfuggire la questione, ha detto anch'io a Sutri, un paesino del Lazio, i bar dovrebbero essere aperti fino alle 20, i ristoranti fino alle 22, tutti coloro che stanno a Roma e nel Lazio possono andare a Sutri a mangiare la sera, però... Tranquillamente, con Sgarbi tra l'altro a fare da intrattenitore, quindi è perfetto. La Procura di Roma si è presa la briga di chiedere di rinviarlo a giudizio per dei falsi dei dominici, Sgarbi intendo, non il presidente del Trentino, e quindi Sgarbi avrà delle rogne se verrà accolta questa richiesta. Poi niente, altra notizia che mi ha colpito è che Ilaria Capo ha detto che a questo punto spera nella immunità di gregge. Questo, quando uno dice che spera nell'immunità di gregge, vuol dire che di fatto si è rassegnata che il virus si espanda, insomma, perché è l'ultima speranza, era quella di Boris Johnson all'inizio dell'epidemia, ed è passata molto rapidamente nel momento nel quale ha preso lui stesso il Covid. E ci scrive qualche ascoltatore, Paolo, ce l'hanno con te, dicono, si dice DPCM, non DCPM, abbiamo invertito un attimo. Ha ragione, però io gioco anche con le parole. E poi qualcuno ci ricorda, a proposito di annunci, gli stati generali, te li ricordi che bei tempi, gli stati generali, il momento degli infatti la crisi è brutta, l'epidemia è una sofferenza terribile per tutti, però quando ci troviamo a dover commentare gli stati generali è peggio, quindi appena si calmano le acque quello ricomincia con gli stati generali, Dio ce lo scampi liberi per carità, e dei DCPM. Andando a cose più ampie che riguardano la geopolitica globale, Paolo, c'è questo scontro in atto tra il presidente turco Erdogan e Emmanuel Macron, con parole durissime di Erdogan Stamattina Le Monde lo definisce il sultano piromano, perché che ha fatto Erdogan? Ieri ha detto che in Europa si respira lo stesso clima che si respirava alla vigilia della seconda guerra mondiale, e i musulmani sono perseguitati come i nazisti perseguitavano gli ebrei. Un'espressione fortissima, incredibile, però stiamo attenti, perché un sacco di paesi musulmani, il Pakistan gli sta andando dietro, e anche in Giordania, in Arabia Saudita qualcosa si muove in direzione di quella che è stata definita da loro la guerra del camembert, perché Erdogan dice che non bisogna più comprare i formaggi francesi, neanche le creme, per la verità, e quindi è una tensione da tenere presente, perché il povero Macron si era limitato a dire che lui non dimenticherà la decapitazione di un intellettuale francese e che ne terrà conto, e questo gli sta provocando una insurrezione della parte più radicale del mondo musulmano. Sì. Ma come notizia dall'estero c'è anche che ce l'ha fatta Trump a nominare Connie Barrett. Perché al posto di Ruth Bader Ginsburg, che era la giudice più progressista della Corte Suprema, adesso c'è un rapporto fra conservatori, sono 6, e i progressisti, i liberali, sono 3, e non era mai successo, pensa, dall'inizio degli anni 30, prima di Roosevelt. E questa non è una questione di lana caprina, perché se sono 4 a 5, in qualsiasi direzione siano i 4, in qualsiasi direzione siano i 5, basta la crisi di coscienza e il ripensamento di un giudice, le maggioranze si ribaltano. 6 a 3 è quasi impossibile. Trump ha avuto un'occasione formidabile, perché è stato il primo dopo Nixon che ha avuto l'occasione appunto di nominare ben 3 giudici, cioè un terzo della Corte Suprema, durante la sua presidenza. In genere, siccome si nominano solo quando muore il predecessore, insomma è una cosa curiosa. Se vuoi, a proposito di queste nomine alla Corte Suprema, io oggi ho fatto un salto sulla sedia quando ho letto una notizia che anche Celentano trafficava con Palamara. Ah, sul Riformista, ho visto anch'io il titolo, ho detto che Celentano, ma che c'entra Celentano con Palamara? Perché, non è Adriano Celentano, ma Carmelo Celentano, il giudice che deve, il magistrato che deve prendere il posto di Davigo, che come abbiamo detto inizio settimana, settimana scorsa si è dimesso per raggiunti di età, si chiama Carmelo Celentano, e stanno venendo fuori delle chat con Palamara dove in effetti insomma c'è molto da discutere, e quindi aveva appena chiuso una vicenda il tormentato Consiglio Superiore della Magistratura, ed ecco che se ne apre un'altra. Celentano, attenzione a tutti gli ascoltatori, non è il cantante, nessuno il del suo clan, ma il giudice. Scrivono Spezia, ma che Mattarella, subito Mieli presidente e i problemi di semestre bianco sono risolti. Come sapete, noi, la nostra campagna è sempre attiva per Paolo Mieli, capo dello voglio Stato. Voglio sentire cosa ne dice Celentano, ma in questo caso non Carmelo Celentano, bensì Adriano Celentano, se no non mi muovo da qui. Che domani ci trasferiamo sulla Luna dove c'è acqua. A proposito, Paolo, prima di chiudere, un ascoltatore ha deciso di sciogliere così il tuo acronimo invertito. Decreto coi consigli del primo ministro, DCPM, da questo momento DCPM, che non è male. Per me sarà sempre DCPM, meraviglioso. Complimenti all'ascoltatore, grazie. Paolo, a domani, ciao. A domani, ciao. Siamo dimenticati di quello che sono stati capaci di vomitare nei confronti del governo semplicemente a giugno, perché non riapriva, discoteche. Questo, come hanno detto emeriti virologi, è il risultato di un'estate dissennata, è il risultato di un'estate senza regole. Ma scusate, se il problema sono gli assembramenti che possono creare i bar e i ristoranti, allora, almeno per i ristoranti, fateli lavorare solamente su prenotazione. Che differenza ci sarebbe? Non ci sarebbero più assembramenti e loro potrebbero continuare a lavorare. Stanno perpetrando il delitto perfetto. Ammazziamo l'economia, ammazziamo il PIL, rimborsiamo, aumentiamo il debito pubblico e poi ci verranno a dire che il problema è il rapporto deficit-PIL. PIL, credo. Qua oggi abbiamo un problema di inversione degli acronimi che è partito con Paolo Mieli e prosegue anche adesso. Quello è il Partito Liberale Italiano. Qualche rimpianto. Se volete intervenire all'800240024, ovviamente per dirci anche la vostra su queste restrizioni che stanno scatenando, come ben sapete, una serie di proteste anche di piazza, a volte che sono sfociate in episodi di violenza, lancio di bombe carta, molotov. Alcune sono state invece in realtà perfettamente pacifiche. Di questo parliamo adesso con un esponente dell'opposizione che è Michele Conti, sindaco di Pisa, della Lega e componente anche della segreteria, se non vado errato. Conti, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Anche della segreteria della Lega, conferma o mi sbaglio? Sì. Segreteria nominata recentemente. Sì, quella. Ci sono quattro sindaci e poi una serie di parlamentari, di governatori su base nazionale. Ascolti Conti, avete intenzione di fare ricorso? Perché ieri il leader del suo partito ha detto con i nostri sindaci stiamo pensando di fare ricorso contro appunto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo stiamo valutando, non è l'unica arma che abbiamo, sicuramente la situazione è complessa e complicata, io parlo per la città di Pisa che ha ministro da 2 anni e mezzo e vi posso dire che le attività, le imprese sono al collasso. Questa nuova idea di chiudere alle 18, soprattutto la ristorazione, sta creando una serie di problematiche come ho visto ieri sera in diverse città italiane. Conti, dall'altra parte, spiega il Presidente del Consiglio oggi in un paio di lettere, una indirizzata al Maestro Muti sul Corriere della Sera, un'altra, una specie di articolo di intervento sul Fatto Quotidiano, dice guardate che qua il problema non è tanto, non sono tanto i ristoranti in sé, ma il fatto che la gente quando va in questi luoghi, quando esce la sera, inevitabilmente un po' si assembra, c'è un'ovvia socialità in situazioni di questo genere, teatri, cinema, ristoranti, bar e via dicendo, e noi dobbiamo ridurre le occasioni nelle quali le persone si incontrano. Sicuramente questo è vero per l'aspetto di carattere medico, epidemiologico, che può creare situazioni di contagio, però è anche vero che i teatri, pensiamo ai teatri, ambienti molto grandi che avevano già messo insieme un sistema di un sistema dove venivano rispettate le regole, dove c'era il distanziamento, dove si entrava con numeri ridotti ai minimi termini, francamente il colpo di grazia su tutto il sistema culturale. E come già ieri, non soltanto a Pisa ma a livello nazionale, è nata questa rivolta da parte dei teatri, che quasi tutti sono di comunali, quindi in qualche modo sono anche spazi pubblici sui quali si poteva intervenire, si poteva far partire in qualche modo i vari spettacoli. Io credo che questa sia un'ingiustizia che va a colpire fortemente il settore della cultura. In merito invece alla ristorazione, credo che dobbiamo fare due cioè, come avrebbe fatto lei? Come avrebbe fatto lei? Io la scorsa settimana avevo organizzato in questa maniera: la parte che è più soggetta alla movida, quindi dove veramente ci sono gli assembramenti, ho fatto un accordo con le due associazioni di categoria più rappresentative della città, Confcommercio e Confesercenti, che si sono pagati una guardiania privata e in qualche modo hanno collaborato con i nostri vigili urbani contingentando coloro che entravano in questi locali, soprattutto in quelle due piazze che sono soggette a movida. Il resto delle attività ho girato, ho visto, avevano già distanziato i propri tavoli, avevano messo insieme tutti i meccanismi che prevedevano i DPCM precedenti, quindi la ristorazione tradizionale era in sicurezza con numeri ridotti già, quindi credo che almeno le 22 le si poteva dare tranquillamente, anche perché come il Presidente del Consiglio dei Ministri l'altra sera ha detto che arrivano i bonifici, arriva il bonifico velocemente. Io mi auguro che qualcosa arrivi, perché queste attività, parlo di una città come la nostra, fortemente turistica, già fortemente compromessa perché non ci sono i turisti, credo che questa ulteriore mazzata possa portare alla chiusura, si stimava, mi dicono le associazioni di categorie, di 400 imprese. Agostino da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Posso parlare? Ehi, come no? Sì, buongiorno. Avevo qualche rimostranza da fare sul nuovo DPCM. Premetto che non ho attività, non sono un pensionato, per cui non parlo per categoria. Vabbè, ci sono questi problemi qua di chiusura che non so se il virus è più attivo dopo le 18 o cose varie. Però la cosa che veramente trovo... non so come definirla, il fatto della scuola, cioè questi ragazzi invece di ammassarli sul pullman, mettere pulmoni in più, li fanno stare a casa. Qui bisogna essere veramente degli scienziati per fare una cosa del genere. Cioè perplesso, mi sembra di capire, mi sembra che sia perplesso Agostino sul tema della didattica a distanza, che è un tema che abbiamo affrontato spesso. Se è perplesso, siamo perplessi anche noi, cioè su questo tema siamo sempre stati abbastanza chiari, soprattutto per l'impatto che può avere su tutta una serie di soggetti, a partire dai soggetti fragili, parliamo degli studenti disabili, parliamo degli studenti con difficoltà dell'apprendimento. Bisogna vedere quanto sarà esteso, posto che alcune regioni l'hanno messa addirittura al 100%, altre regioni come il Veneto erano pronte a farle solamente al 50%, ci ha raccontato nelle scorse ore il Presidente della Regione Luca Zaia, ma il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri impone di portare la didattica a distanza al 75%. Entro l'11 novembre dovrebbero arrivare questi famosi ristori, i conti. Voi avete parlato di... voi immaginate anche di scendere in piazza, ne immagina di scendere in piazza con i ristoratori della sua città? Sono in programma proteste anche da voi oppure no? Ma sicuramente i ristoratori e le associazioni di categoria so che per venerdì hanno, mi dicono, vogliono fare una manifestazione sotto la Torre di Pisa, che è una sorta di icona, no, a livello mondiale, per gridare la loro difficoltà di questo momento. E credo che la questione vada affrontata. Già tante imprese da dopo la chiusura del primo lockdown non hanno riaperto, quindi una serie di ristori poi di fatto non sono arrivati. Noi ci siamo attivati come comune, abbiamo messo in campo Riapri Pisa, mettendo a disposizione 700.000 euro per contribuzione al pagamento degli affitti dei fondi commerciali, 500.000 euro di sgravi della Tari. Abbiamo sgravato la Tari nel periodo di lockdown alle attività che erano chiuse, e stiamo appunto continuando in questa logica, cercando di dare una mano. Però siamo un comune capoluogo, ma le risorse sono quelle che sono. Sono arrivate un po' di risorse, sì, di ristori nazionali, ma non sono sicuramente sufficienti a poter puntellare una situazione molto compromessa e molto complicata come questa. Lei pensi, ieri ho ricevuto dei parcheggi intorno al nostro aeroporto, che è fermo ormai da mesi. Ci sono una serie di attività complementari, i parcheggi delle auto di coloro che andavano in vacanza, muovevano per business, che sono al collasso, parcheggi privati, no? Quindi, sì, per dire, una situazione che è complessissima, non è solo la ristorazione o il bar. Certo, comprende, no, ma è chiaro, Conti, i tentacoli della pandemia e degli effetti economici della pandemia si riversano su tutto. Antonio da Napoli, buongiorno. Salve, buongiorno. Volevo essere testimone di una problematica che per fortuna non riguarda me in maniera diretta, ma un mio carissimo amico, io chiamo da Napoli, volevo denunciare la disperazione di chi purtroppo a causa della crisi pandemica è in cassa integrazione e non riceve i soldi. Questo mio amico ha avuto dallo Stato solamente un acconto per il mese di aprile, un acconto della cassa integrazione del mese di maggio, non ha avuto ancora pagato giugno, luglio, agosto e settembre. Se non ci fossi io in qualità di amico fraterno che lo sostiene finanziariamente, avrebbe fatto gesti veramente prossimi al suicidio. Questa cosa non è giusta, non è giusta per due motivi. Il principale è quello là umano. Umanamente non si può mettere alla canna del gas una persona che ha sempre lavorato pagando le tasse. Secondo luogo, non è giusto che ci sia una sorta di supporto assistenziale da parte di amici o parenti, sottraendo risorse poi importanti e strategiche alle proprie famiglie, anche perché questi soldi che io vado a prestare non li riceverò mai più, perché lui non sta in una situazione per potermi restituire quello che do. La condizione di indigenza è tale da non poter onorare nessun tipo di impegno. Antonio, chiarissimo, e tra l'altro devo dirle che le fa onore il supporto che sta dando al suo amico, proprio di Cassa Integrazione parliamo adesso, Guglielmo Loi, Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, torna da noi ogni tanto la chiamiamo Loi, perché qua nel momento nel quale vengono promessi ristori per bar, ristoranti, piscine, palestre, eccetera, entro l'11 novembre, almeno una parte entro l'11 novembre, gran parte entro l'11 novembre, e comunque ha detto il ministro Gualtieri tutto entro la fine dell'anno, noi siamo ancora indietro esattamente su quello che poi incide anche sui bilanci delle aziende, perché ci sono aziende che pagano la cassa anticipano la cassa integrazione ai propri dipendenti. Loi, buongiorno, bentornato, e a che punto siamo? Siamo che diciamo c'è una cosiddetta giacenza, sostanzialmente domande presentate dalle imprese per essere autorizzate e conseguentemente poi sperare che siano pagate al più presto o direttamente ai lavoratori o conguagliate dalle aziende stesse. Sapete che ci sono due meccanismi, diciamo, alcuni più rapidi, il conguaglio, cioè l'azienda anticipa, oppure quello che deve aspettare l'assegno del lavoratore, come nel caso probabilmente dell'ascoltatore ha segnalato. Insomma. Noi ovviamente valutiamo le domande presentate non ieri, perché hanno una fisiologica tempistica per essere approvate, ma insomma a settembre siamo intorno a circa 200.000, 150.000 domande, forse 200.000 domande complessivamente delle imprese che l'hanno presentata entro, diciamo, fine settembre, quindi quasi un mese fa. 200.000 domande significa, ad essere prudenti, intorno ai 400-500.000 lavoratori interessati a seconda della grandezza dell'azienda. 200.000 inevase, 200.000 inevase, Loi. Diciamo sì, che si deve completare l'iter. Ripeto, un mese non dico che è giusto, ma è abbastanza fisiologico, perché ovviamente la domanda va valutata se l'azienda è tutto a posto, se i lavoratori sono in carico, perché purtroppo nel grande numero c'è sempre qualche furbo che magari assume il giorno prima per poi pensare di fare l'operazione sulla cassa integrazione, quindi è normale che ci sia un controllo incrociato dei dati e quindi qualche settimana passa. Quello che è patologico comincia a essere tutto il bacino delle domande presentate, diciamo, da un mese e mezzo, e questo è un bacino che naturalmente, come dire, si diminuisce, ma nel contempo viene rialimentato da nuove domande, insomma. E questo è un tema che speriamo che il legislatore affronti con coraggio anche nelle prossime ore, perché immaginiamo che ci sarà di nuovo un ulteriore picco col quarto decreto con regole cambiate che partirà da domani, sì. Dopodomani, quando verrà affrontato il decreto. Sì, Loi, sono qua parliamo solamente di quelle relative all'INPS, per intenderci, non è compresa la cassa in deroga, quella che deve essere erogata dalle regioni, no? In deroga sono esclusi due fondi speciali, tra virgolette, che sono quello degli artigiani e quello dei somministrati, che ha una gestione privatistica, il cui unico problema è semplicemente quello che il governo ci mette settimane a dare le risorse per poter pagare, quindi l'INPS da questo punto di vista è fuori dalla gestione, è un rapporto tra il governo e questi fondi. L'altra volta ci hanno messo due mesi a dare le cifre stanziate, che ha creato un problema grosso, parliamo di bacini molto rilevanti, artigiani e lavoratori in somministrazione. Sì. Domenico da Roma, buongiorno. Buongiorno ragazzi, allora io sarò molto breve e conciso, perché non bisogna essere solo Presidente del Consiglio per fare determinate però Domenico, ecco. prova a staccarmi la bocca dalla cornetta, perché lievemente, perché si sente veramente distorto. Va bene? Sì, forse un pochino meglio, vai. Allora, dicevo, non bisogna essere certo Presidente del Consiglio, no? per determinare questi casini. Allora, era molto semplice, io parlo per i ristoratori quanto per le palestre, eccetera. Allora, ci hai chiesto la prenotazione per andare al ristorante a suo tempo? Continua a farlo. Io ieri sono andato a mangiare a un ristorante, visto che c'era questa situazione di emergenza. Il ristoratore, come solito, mi chiede di formulare un pezzo di carta dove mettere nome, cognome, telefono, eccetera. Lui ha 100 posti disponibili, ne usa solo 30 e continua a lavorare serenamente. Io non capisco questa decisione assolutamente assurda, che il Presidente del Consiglio può benissimo recuperare, perché altrimenti la pagherà cara. Non so come, Domenico, spero che non intenda niente di violento, ma non credo. Credo la giustificazione che ha dato il Presidente del Consiglio oggi è, dice, vogliamo evitare i momenti di socialità. Antonio da Gorizia, che se non vado errato è un ristoratore. Buongiorno Antonio, eccoci. Sì, buongiorno a voi tutti. Prego. Sì, io sono ristoratore di terza generazione ormai con la mia famiglia. Ci occupiamo di questo a Gorizia. Non entro nel discorso chiaramente medico o tecnico scientifico, ma mi riferirò esclusivamente alla ristorazione. Questo che hanno fatto non ha assolutamente senso, perché l'eventuale assembramento ci potrebbe essere anche a pranzo, e fino a qui siamo d'accordo tutti. Secondo me il vero problema che loro volevano arginare, immagino, era quello degli assembramenti incontrollati magari al di fuori dei locali da bar. Ecco perché tendevano a ridurre gli orari dei bar, anche perché i giovani nutrono un senso di, diciamo, di indistruttibilità. Eravamo giovani tutti. Però come lei sa, Antonio, il confine è molto labile certe volte nelle vostre strutture. Cioè magari lei è un ristoratore duro e puro e fa solamente quello, ma ci sono un sacco di posti che sono metà ristorante, metà bar, non si capisce bene, quindi là è poi difficile distinguere, si finisce per sparare un po' nel mucchio. Io capisco che possa essere doloroso. Alla quale io mi riferisco, che sia ristorante, pizzeria, non il bar con servizio di ristorantino, non prevede quei grandi ammassamenti. Per quello che ho visto io nella mia città di Gorizia, mi ripeto, tutti i ristoratori hanno usato le dovute precauzioni. Il problema è un altro, che mentre il bar comunque potendo aprire alle 5 e potendo terminare il servizio alle 18 viene leso un po' meno, in quanto il grosso delle colazioni viene fatto la mattina, un piccolo servizio di ristorante per voi ristoratori veri è una mazzata forte. Abbiamo ancora un minuto, grazie per la sua testimonianza, abbiamo ancora un minuto sempre con Guglielmo Loi. Loi, ma com'è possibile ci siano pratiche che sono ferme, chiede un ascoltatore, sempre un'ascoltatrice, non lo so, da maggio, o addirittura alcuni che ci scrivono, dice guardi io non prendo la cassa da aprile, com'è possibile ci siano cose bloccate così a lungo? Ma ci sono varie ragioni, e se non entro nell'ambito tecnico, quando il numero è enorme, stiamo parlando di 2 milioni, 3 milioni di domande presentate nel corso del tempo, quando c'è una problematica, diciamo così, che può dipendere dall'istituto o dall'azienda o da un incrocio di dati, la grande quantità di attività viene sviluppata soprattutto per smaltire il grosso. Quindi quando c'è un nodo, in una situazione ordinaria l'operatore giustamente la va a vedere, a estrarre, a dialogare con l'azienda. Quando è costretto per l'operatore dell'INPS a macinare decine di pratiche ogni giorno, probabilmente si mette in un binario, diciamo, parallelo le situazioni un po' incartate, come si può dire, il termine non è proprio scientifico, insomma. Sì, e che a quel punto si incartano ulteriormente. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Guglielmo Loi per essere stato con noi, grazie a Michele Conti, sindaco di Pisa, Guglielmo Loi, presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'INPS, Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, a tutto il resto della squadra. Noi ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Una buona giornata, Simone Spezia. Ciao.